canale 10? Hola, hola, hola. Sei il cucco quale? Che sei, Carlo? Canale 10. Ok, avanti. Oi, amico mio. Porca, ho capito. Cappa. Io sto pensando di mettermelo. Cappa, e dove sei tu, che zona sei? Bene, mi senti lì? Cappa, ecco là, da 48 sono. Ce l'ho anche io lo Zodiac. No, non mi funziona. Non ho capito cosa c'ha, però. Cappa, e che sono, ma se ti stai muovendo, ti stai. Non sei fortissimo, già ti sento. Cappa. Cosa? A che cosa stai attento? Ah, ce l'hai tu acceso. Ah, ho capito. Cappa, mamma mia, che scarrompi il bio. Quando vai a acquistare l'ara 48 c'è scritto libera vendita. Cazzo, da Fusaro costa 250 euro. E vabbè, è un buon apparecchio però, eh. Cappa, è un buonissimo apparecchio con l'ara 48. A me piace. Cappa, è robusto, bello. Cappa, quello che c'è. È un malacchino. C'è la Fusaro, 250 euro costa. Ma avendo i soldi forse ci farei un pensiero. Quello nuovo è anche meglio, mi non prende colpe. Sempre un baracchino, una cosa che non ti voglio una carta. Ma la 48 è la 48. Ma poi quello nuovo è ancora meglio di così. Io questa è quella la versione vecchia. Su quanti anni che lo fanno, lo riproduco ancora, però con i componenti nuovi. Con i componenti nuovi. Hola. Egare. Capa, dove sei arrivato? Capa. Mi ha fatto una cagata, mi ha. Io la porto lì dove c'è un sham, cioè dove c'è coso, no, dove c'era il Citamercato lì, dove c'era il Cisalfa, me la fa pulita, ci sono quelle pompe, cazzo, che tirano professionali dal lavaggio, ne cava tutto un macchino. No, ma non te la pulisci tu, devi mettere il gettone. Non vedo l'aspiratore. E già c'è l'aspiratore, sì. E allora già andare. Pure io la tengo molto pulita. Adesso questa settimana dico porro una saspirata, cazzo, ma dopo 5 minuti un diceva che ha fatto, mamma mia quanto la fa. Ma che è tua figlia? Hai cacciato qui, sa che ti bombeggia, ti chiude in alto, non ti preoccupare, tutti l'avevamo fatto. No, non è tua. Prima o poi se acciappi da noi gli altri a trovare il bettino, non ti preoccupare. Vabbè, allora a me, io ero felice, ero con mia moglie, ma è andata come è andata, già la sai la storia, ma non so se sei la storia, ma vabbè. Purtroppo non c'è più, quindi... ti sento bene. Ehi, ok. Ehi, ok, non c'è problema, ma sempre qualcun altro dopo. Ho migliorato la stazione. Ah, te l'hai spostata? No, ho sempre avuto. Ho messo il baracchino, ho messo il 48 in camera da letto. E il cavo l'hai agganciato a cosa allora? Se c'è la discesa ce l'hai lì in soggiorno, come fai a averla in camera? Col commutatore, ciò. Ah, ecco. Ma è da un bel lume. Non da me questa storia. Vieni qua. Ho preso il capo. Ho preso. Ma no, bemmi, capo, da quando ho messo l'antenna sul tetto, mi c'ero. Il capo in camera. sapevo, no, io ho solo in cameretta e basta. Solo in cameretta. Ui. Vabbè. Buttala lì a casa, non ci fatto un cazzo. Anche la giornata non te lo permetto, vabbè, la prossima settimana però. C'è tempo, lo permette, una mania mia pizza. La pizza, boh. Stavo puttando andarmi a 140 grammi, adesso vediamo. Prova da quello di carbonazzi. No, io non ho niente, ma niente. Un po' di napiso. Cappa, mi senti bene con questo apparecchio e con questo microfono? Il MB4 c'ho. Sì, perfetto. Hai visto già anda. Segnale a fondo scala, così. Tutti i LED accendi. E domani è lunedì. Cappa, è una bomba questa, la 48. C'ho una ricezione da pauroso. Hai visto il nuovo che hanno fatto? Cazzo che si accendono tutti i LED, cioè, anche nei tappi. No. Siamo te parlando, non mi interessa, non ci comprerà nuda. Tanto non è nuda, cosa fa? Lo so. Cazzo, 250 euro, forse. Ma portati devo veicolare. Ma la 48 nuovo. Ah, 48 nuovo. Si conta affrontare tra un auto e un furgone, un uomo in ospedale. E dove è successo questo qua? Che... E cosa cazzo compri? C'è la roba, c'è. Cioè, ancora comprare a voi. Oh, eh. Appunto, io ne ho quattro baracchine, tu. Perciò, alimentatori ne ho tre, di cui due, uno switching, l'altro trasformatore, l'altro... come si dice? Due switching, quelli autocostruiti. Quello non l'ho più usato, quello 50 ampere, ma è poco più che devi c'è 50 ampere. Ma va, tranquillo che va, ti dà forte visto. Devi poca fiducia a sé, eh? Sì, così me l'hanno detto, che è esperto. Va, va, tranquillo che va. Ciao. E questo praticamente l'ho fatto passare io, nella ringhiera, tutto nella ringhiera, ho fatto da fuori, mi l'ho fatto, non l'ho passato da dentro casa, da fuori, nella ringhiera, e poi ho passato dentro qua, ho bucato, e via. Ma già vi raggio una di? Sì, ma tu mantieni il radio. Consiglia proprio. Ah, c'è la tosse al bambino. Come? La tosse al bambino. Bambino? Sì, su saluti 8, sì, debù. Stava fanno tempo. Sente tutto questa camera. Beh, ti credo. Una bomba è questa MB4. Avevo solo le batterie, ne avevo tutte dalla busta. Ho comprato le batterie nuove del microfono. No, va benissimo, tu. Cappa. Però che ci tendi i muri, ci tiro dietro. E almeno una cosa come si deve, dai. Ne ho uno, quello 34 canali, cosa è? Raggio puzzato, raggio, posso prendere sul 40. Ed è buono lo stesso, eh. Non ho capito, tanto, di 140. Oh, ne ho uno, quello... Come si chiama l'Intac? Boh, non ho capito. L'Intac, quello che c'aveva meno canali. L'Intac che c'aveva meno canali. Ah, il 34S. Quello lì c'ho. Che si somiglia al Typhoon, quello. Quello che all'epoca era in voga, era. Capito. È nuovo nuovo. Mandami la foto. Ho messo il baracchino in macchina, poi ci ho ripensato. Mi è giunta la paranoia, non l'ho messo. Ah, ma non è 34S. Ho capito, capito. L'Intec. Sì, sì, sì. Non andava. È bello. Sì, ho capito. Antonio Giovanni. così facciamo andare questa radio. Mi sa che attacco anche il Typhoon. No, non il Typhoon, il Superstar che era un po' spento. Anche il Typhoon lo stesso. Vabbè, il Typhoon basta che attacco l'antenna. Ed è sta. E sta andando. È stato Giovanni. Come va? Ehi, si va avanti, cosa vuoi fare? Bisogna andare avanti, ciao Anto comunque, anche a te. Ciao Giovanni, questo già lo senti bene, sì. Stavo con l'antennino, ti sento benissimo, là. Non come ieri, ma oggi ti sento bene perché sono con l'antennino, capito? Cappa, ma ho cambiato, questo è il 48. Ma io va bene, là. No, io mi sento male, male veramente. Per cui questo che sta usando adesso è già un'altra cosa, è più perfetto. Dimmi Giovanni, Duomo Manzano, alle 3:30 suona. Alle 3:30? Sì. Alle 5:20 devo essere già operativo. Atta. E ancora finisci? Alle 9. 9:15. Vabbè. Allora io va bene, dai. E c'è tutto il giorno nuovo. Tranquillo, ti puoi riposare benissimo. Mi riposo e boh, mica posso sci. Sono il sabato e basta. Vabbè, Giovanni, non fai altro, va. Se ti rimuovi su di fè, poi se c'è un po' di meglio, allora c'è un bello. Se no, pazienza. Per il momento rimango lì. Infatti, finché non si trova meglio, senti su che fa, sei tranquillo, capito? Non faccia trovare meglio, ma comunque. Fidati quello che viene, da voi in seguito si vedrà. Sì, ma infatti. E poi mi faccio i miei piccoli lavoretti, Giovanni. Qualcosina, si deve accampare. Capito? Oh, via. Ma come che già mi arrangio in tutto, là? Meno male. Se no, guai. Oh, via. Non bastano. Quelli che prendo non bastano. Poi, quando hai una macchina da accamparti, benzina, ghiddu, O no, Anto, tu cosa ne dici? La macchina non ha spesa. Loro di a me, sei un uomo di napi pure. Cazzo che un mese ti so faccio di... Come te leva ti sono riusciti? Ma tu io stavo... Sempre tranquillo adesso, Anto, no? Lavorando, stai lavorando, così è. Sì, adesso non trova niente avanti. Ma già, si tira avanti. E lui sì, là, l'importante che sia poco a poco, ma bisogna andare avanti così, perché sì, come dice Luca, finché non si trova meglio. E per cui si va avanti così, poi là. Là ci sono stato anche in quelle condizioni, ma molti anni fa, e per cui so qualcosa, ecco, per cui è un momento difficile pure. Prima magari no, si trovava facilmente, ma oggi è un po' difficile, per cui... Bisogna prendere quello che c'è, ecco, tutto lì, e si va avanti. Grazie a Dio già mi tocco che fa, a travagliare, non so come andrò. La Madonna, bisogna adattare la macchina, bisogna darsi di fare, per essere più tranquillo. E così è lui. È vero. No, ma che su invece non me lo posso. Che cosa? Dove? Già non udimo il travaglio. Quello che so fare è faccio. Quello che non lo so fare non è faccio. È semplice. Non è così. E gai su conto. Vabbè. Comunque. Se dovessi servirmi, già lo sai. Già ti chiamo. Insomma, sappi che io a quell'ora, quando andiamo noi, sono libero. Eventualmente già ti chiamerò, capito? Importante che sei libero, si abbaccia anche con voi, magari un altro mese, là. Perché altro mese gli altri da fare, per cui tu a tre sere va benissimo. Sì, non c'è problema. non problem. E adesso era un po' no. Vabbè, là, boh, perché metto, ci sentiamo, là. E a tutta accendere, così avevo ancora, mi ho sentito, stavo più trattato, là. Ci sentiamo lui, buon proseguimento, ciao Antonio, riprendi il tuo e io chiudo, vai, buon proseguimento. Ciao, ciao Giovanni, ce la risentiamo alla prossima, ciao ciao. Avanti lui. Sì, a Giovanni, quando vuoi. Alla prossima, ciao Giovanni. Sì, ciao. E Gussi, è beato, e Ridda, sempre male di Dinne, dico, di Balda. Sì, allora ti sanghi il bacio di un uomo, devo fare a semine, a fare cicchi cicchi appena appena. No, a semini? Sì, forse sì. Cazzo, ho fatto asco. Cosa? E dico, ho fatto asco. Ah, è una di una punta, la macchina di parotti, mai neanche niente. Boh, però non vai su Facebook. Cosa? Perché non c'è su Facebook. È un po' strana. Vai, tanto. Ecco, basta che si godia, allora di una punta. Capo, devo controllare, capo, ce n'è uno che secondo me è nuovo nuovo, 2TBB+4. Porca. casa. C'è qualcuno? No. Saluta a tutti.